esserci, se non cade. Siamo in diretta? Sì, siamo in diretta. Se... questa era la sigla! La sigla è questa. Tan tan tan tan tan. Dov'è? Dov'è? Dov'è? Tan tan tan. Ah sì, ci ho pensato di mettere. Per mettere i contenuti. No, io me lo immaginavo verso degli assi. Vabbè, ci teniamo, ci teniamo catto dentro. Salla dentro. Ho capito un cazzo. I was little. I used to dream that. Had a cape and I'd fly. Rescue my friends. Burning buildings. No one would ever. Costumes fade fast. Superpowers pass. Benvenuti a questa terza sessione, o sezione, di Unstructured Heroes. Non ho idea se la luce sia buona, ora ci guardiamo. Il microfono è lì, io lo metto così. Non mi sentiranno mai. Tu dovresti parlare un po' più forte per una volta, invece di dire... Dirò un potere. Però se vuoi tu si vedere, si vedrà soprattutto il cellulare, tu si vedrà la cosa più importante di Giulio. Aspetta, adesso ci guardiamo. Si dovrebbe vedere il cellulare. Sì. Vediamo se siamo in diretta. Siamo in diretta? Quello che requisiranno le guardie. In questa sessione noi saremo in prigione. Se le no, la luce la vede. Adesso comunque a parte tutto. Vabbè. Siccome siamo tutti quanti qua che giochiamo, eccetera, è giusto che vi chieda il vostro parere, ma essendo casa mia, la polizia la chiama. Facciamo prendere un recap per i nostri numerosi telespettatori. Per mettere la roba sul blog, bisogna inviartela. O avanza. Vabbè, bisogna inviarla a uno di voi due. Vabbè, possiamo anche creargli un account. Non è un problema. Che abbiamo detto, però? L'hai mangiato vivo il pollo stavolta, quella lì. Il pollo, la mucca. Cosa vorresti mettere? Mucca e pollo. Però allora, niente. Figo, cioè, la mucca si pone mentre infilavo il pollino della mucca. Anche sono Giulione, ma se sentirà la adesso voce. Anzi, gli abbassiamo un po'. Cioè, in verità, la settimana scorsa volevo scrivere qualcosa. Però poi non ho per tempo. Qua. No. Quello è un crossing. Sulla nostra scelta di oggi. Mai visto? No. L'altro? Non lo vedete? L'ho messo io dietro. Adesso ho usato un po' di prodotti che mi hanno dato. Come hai visto, c'è totalmente a caso. C'è un botto di roba. Quello di fosfato l'ho rovesciato intero. Sì, appunto, anche per rilanciare un po'. Cominciare a bilanciare. Non è stato un trattamento per i fosfati nell'acquario. Sì, loro me la mandano e poi io la unto. Sto studiando la sigla di chiusura. Serio? Io farei come sigla di chiusura la sigla di Westworld cantata da Yak. Qualcosa con la voce di Yacht. Un petroliere. No, non conto come italiano all'estero, ma potevo votare comunque come italiano a Sasso Marconi. Sì? È sempre per posta. Ah, allora, ah, però se italiano all'estero, nel senso che lui non è residente, lui doveva chiedere al comune. No, non è quello, è che non sono iscritto all'AIRE, però potevo comunque fare richiesta al comune di Sasso Marconi di inviarmi la tessera elettorale la bustina con il voto. Solo che non l'ho fatto 2 mesi fa, e quindi cazzi miei. Quindi torni per votare. Ok, riprova. Beh, se la voto io per te, dimmi cosa vuoi, che voto io per te. Certo. Io puoi votare per me, sì. Quanti exp vuoi? Scrivi le penne sulla scheda. Ci siamo sul dopo salamina. Fate un rapido riassunto. Allora, niente, è andato tutto bene. Il tizio è stato molto cordiale nel salutarci e andare a casa. E giusto? Non era così. Se clicco qua, spengo. E non... Cosa devi fare? Riportarmi sul problema. Basta che clicchi lì due volte. Ok. E per togliere sta a me? Ok. Sta a posto. Scegliamo, la mia proposta è questa. O aspetta, la riassunto. Entri in Parlamento e in Senato rapidamente. Sì, facciamo un riassunto. Guarda che non funziona così. Dai, Arci fa un riassunto e lo fa anche ad alta voce. Minimamente così. Dai, Arci fa il riassunto serio. Riassunto, qual era? Ah, abbiamo iniziato che la polizia ci ha portato, ci ha fatto avere le nostre deposizioni. Tipo me e K ce l'ha fatta fare in ospedale perché eravamo fatte nell'aria, mentre gli altri in teoria hanno fatto in questura, giusto? E poi ci siamo sentiti tra WhatsApp e Facebook tra di noi per sentire come stavamo, e eravamo scossi dalla giornata, insomma, un po' impegnativa. E poi ci siamo organizzati per trovarci al baretto della questura per poi andare ad allenarci in cantina la mattina dopo. I petrolieri che hanno WhatsApp. Esatto. Allenarci. Sì. Dovevamo provare i nostri poteri. Questo non me la ricordo. Diciamo tentare di capire i nostri poteri. Esatto. Esatto. E Scio l'ha messo in pratica. E ha detto, questo li userò sto giocare per parlare. Che sul professore, in cui Vez ha detto, no, io mi sa che voto sì. E allora lui gli ha tirato un pugno. Questo qua. Scio ha detto, colpisci le mie costole. Questo qua gli ha attaccato le costole. Chi vuole. E... una cosa e l'altra, quando era perfettamente immobilizzato per terra e la situazione era salva e tutto sotto controllo, Sceo gli ha spaccato la testa. È andato esattamente così. Beh, vagamente sì. Ho reagito un po' troppo. E quindi ora siete lì che vi disperate con un cadavere. No. Tecnicamente Vezza ha già buttato via l'arma del delitto. Vezza ha buttato l'arma del delitto in una sorta di... Sì, però l'ho toccata con un panno di Arci. Cerchio magico e l'ho messo dentro col panno. Sì, ma adesso la puoi salire tirare fuori. Cioè, dipende da Yak. Da Yak, dipende cosa? Non è lui che fa sparire le cose. È meglio che Yak la tiri fuori. La scena. Cosa? Attenzione. La scena si apre in. Come nel serie TV dopo riassunto. Che da buio. Appare una luce e ci siete voi tipo così che vi guardate intorno, mio Dio che cazzo facciamo eccetera. Ah, ci sei tu che dici di acquisire le capacità motori. Comunque da quando il superpotere dico sempre assetto, volevo dirti questo. Mentre sempre palchetto, vero? Volevo solo dirti questo, senza segnare. Però... mentre state discutendo, Katta, il cellulare suona. Il mio? Errore! Sì. Quello di Giorgio. Quello di Giorgio. L'unico cellulare di Bologna che prende in cantina da me. Si legge il numero. Non prendono per niente. No, non c'è campo. Ma dipende. Se è team, sì. È un comlink. è uno Psyphon. No, vabbè, ok, funziona. Psyphon? Yes. Okay. Sicuro, non prende il 3, sicuro non prende il 3G. Però magari qualche linea può prendere. Okay. E cosa c'è scritto sulla schermata? Numero sconosciuto. Come cazzo fa a prendere che il mio non prende? Prende di Giorgio. Ah, il cellulare di Giorgio. Vabbè, non rispondiamo ovviamente. Anche perché se è bloccato il cellulare non penso si riesca a rispondere. Beh, se arriva la chiamata poi... Sì che si può rispondere. Sì, non so. Basta scorrere. Io direi comunque che adesso chiama la polizia. E cerchiamo di... Vabbè, in realtà io seriamente ho la crisi di nervi e comincio a piangere. In ogni caso, credo di realizzare. In ogni caso, confessando, hai delle riduzioni di pena. In ogni caso. Vabbè, io mi metto a piangere, mi metto tipo in un angolo della stanza, mi siedo per terra con la testa tra le ginocchia e piango di rotto perché ho realizzato cosa ho appena fatto ed è la cosa più brutta che potrei mai fare nella mia vita. Allora, tanto qualcuno può chiamare Emma per consolare il Scio? Perché in questa situazione sono intervenuto? Beh, un sciam. Doccia, credo. Boh, rega, a parte gli altri, sono tutti uguali. Sporca di sangue, salve. Se puoi darmi qualcosa per... Hai un bagno, giù? Togliermi i suoi pezzi di cervello. Un abbraccio dell'acqua. Beh, tutti abbiamo partecipato. Diciamo a tutti. E io ho preso un pugno e basta. No, beh, diciamo se non che... sei bravo a ridarle indietro come me. No, diciamo quello che è successo, che lui ha iniziato la rissa, noi avevamo sedato la rissa, nel senso bloccandolo. È un coglione, ha tirato un sì. La testa. Cioè, diciamo che se fosse un TDR, ma il mio personaggio, cioè, ci fidiamo della polizia, cioè, magari se andiamo lì e loro sono collegati a sì qua, ci ammazzano. Vabbè, voi dite andiamo in prigione, quindi è uguale, cioè la nostra vita comunque è finita. Se la prigione è il posto più sicuro in cui possiamo allora, stare. E come diceva lui l'altra volta, adesso c'è un minimo, o giochiamo come se fossimo noi stessi o no. Se giochiamo come fossimo noi stessi... Non ha senso giocarla come siamo noi stessi. Sono d'accordo con te, si chiama la polizia. Se giocassimo a un gioco come facciamo sempre, allora direi... Sì, esatto, abbiamo una macchina e andiamo via. No, c'è veramente un pozzo, buttalo lì. Cioè, ti direi così. Però siccome stiamo giocando come fosse la realtà, io mi rendo conto di quello che ho fatto e... Non lo so, ma provo a dire... Di io impazzisco. Volevo scrivere un pezzo. Cioè, bisogna vedere. Approfittiamo di questa cosa. Siamo in 5, facciamo una votazione democratica, dopodiché se vince il fatto di non dire la polizia, io la chiamo uguale. Prima di chiamarla, come si chiama? Rispondo. Io ti fermo, se lo vedo rispondere base a cosa, scusa? Perché sono sconvolto e... Posso fare, che so, un test di riflessi per fermarlo? Scusa, aspetta, rifiuta la chiamata. Magari chi c'è dall'altra parte capisce che chi... Magari chi c'è dall'altra parte capisce che Giorgio non può rispondere. Facevo il verso a te, no, che dicevo, posso incenerirlo? Hai capito? Rifiuta la chiamata, no, raga, siamo già nei cazzi. Non cominciamo a fare quelli che cerchiamo di impinare le robe. Rifiutiamo la chiamata. No, lasciamo che squilli. Ci sta suonando il cellulare del tizio. Sì, ma ce l'ho io in tasca. Perché cosa dici? È vero, comunque dici una balla. Comunque diresti una balla che vanno solo. Fermi tutti, zitti. Allora, Katta, se vuoi rispondere e qualcuno glielo vuole impedire, fate un tiro di iniziativa. Rispondi, Katta. Iniziativa. Io cerco di impedire a Giulio di impedire. Non lo so. 6, 1, 5. Tu strangoli, io colpisco. No, ho una domanda. Un altro peso. Ho una domanda per lo sceneggiatore. Prima tiro anch'io l'iniziativa. Siccome sono letteralmente sconvolto, devo fare dei tiri sulla psiche. Ne abbiamo fatti la scorsa puntata. Ah, ok. Vabbè, allora anch'io tiro l'iniziativa, sì, l'istinto di bloccarlo un attimo e di ragionare prima di rispondere. Tu rimani in tuo angolo a piangere. No, sto rimanendo in tuo angolo a piangere. Prima che faccio qualcosa. Io faccio 4. Siamo schiavi. Tocca a Giulio. Allora no, Giulio, dimmi come lo vuoi fermare. Considera che tu non sei necessariamente vicino a Katta. Io sono sulla soglia, più o meno. Ok. Se squilla... Praticamente subito dopo che è morto il tizio. Beh, sì, no... però squilla per un po', perché Katta non ha risposto. O sta continuando ancora? Sì. Io dico, se dovesse richiamare il numero sconosciuto e qualcuno di voi ci tiene a rispondere, dico per favore, chiunque lo faccia, si prende la responsabilità del fatto che quando arriva la polizia, dice, io ho visto la chiamata, io ho risposto, di mia iniziativa, eccetera, ma non c'è problema. Vi dico che la polizia però non l'avete ancora chiamata. No, infatti io sto cominciando a uscire. Adesso andiamo in questo momento. In casa tua c'è, vabbè, andiamo più cani la nostra. Che ora è del giorno? Era tardi, ci siamo visti verso le 10. Mezzanotte, tipo. Ma siamo tutti d'accordo su questo? Sì, è più o meno mezzanotte. Sì, vabbè, io mi ripiglio un po' e dico anch'io che chiamare la polizia è la cosa più sensata. Dopo un paio di minuti il cellulare suona ancora. Beh, rispondiamo, sì, dai, andiamo. Cambia, non devi dire niente. Ma siamo solo ascoltare. Andiamo tutti, aspetta un attimo, andiamo tutti a chiamare la polizia. Andando verso la questura. E con Vez e Katta. Sì, noi quattro siamo da Arci col cadavere e... mentre invece gli altri due vanno in questura. Ma andate a piedi a chiamarlo o chiamate telefonicamente? Cazzo, dobbiamo fare 200 metri. Ok, quasi subito dopo che sono usciti Arci e Giulio, suona di nuovo. Rispondo, metti in viva voce. Metto in viva voce, va bene. Senti, pronto Giorgio, tutto ok? È una voce di donna. Ma certo, la farò segnare. Adesso lascio. Io faccio segno di stare zitto. Sì. Continuo. Giorgio, cosa? Cioè, continuo a farlo parlare, non dico niente. Farla parlare. Farla parlare, sì. E Giorgio sentì, allora li hai convinti a venire con noi? Giorgio? Giorgio? Chi parla? Ehi, ma chi è al telefono? Chi parla? Tu dici chi parla? Sì. Ah. Tu devi essere uno degli amici. E tu? Giorgio come sta? Ha un leggero mal di testa. Ah, d'accordo. E cosa avete deciso di fare? Di... Avete bisogno di un aiuto, diciamo, no? Sì, se la vuole in polizia. Potete raggiungerci adesso? Dipende. Per fare cosa? Polizia. Abbiamo un piccolo problema con alcuni degli altri. Descrivi il problema. Il problema è che non vogliono venire e li abbiamo legati. Che stronzo sei, ne legato? Tira su sociale. Social! Farà girare, attenzione, Vezze. Non è social, è un loser. Sempre un di 6. 6? 3. Ho visto male. Ok, fammi parlare con Giorgio e decidiamo i dettagli. Giorgio al momento non è qui. Ok, quando è qua e lì da voi, dite di richiamarmi. La situazione potrebbe cambiare tra poco, nel senso che la polizia arriverà qua. E noi non possiamo muovere. Ah, perché? Perché va così. Non so chi sei, per cui non ti do altri dettagli. Di che giorno si è sentito male? Se hai detto che stai dalla nostra parte, allora... Scegli tu cosa fare, ma tra poco le cose cambieranno. No, non credo. Ma la polizia d'estate. Sì. Questo va ricordato. Io dico... Cioè, in teoria così siamo buonasera. Un po' da parte di tutti. Io dico buonasera puoi provare a castrare. C'è qualcosa... Non ha ucciso nessuno, come si dice? dico, se ci sarebbe bisogno del vostro intervento... Ho ucciso questa persona, la testa. C'è di mezzo un morto. Questo. Ah. dico qua dietro nel vicolo. Qua dietro nel vicolo, e come è morto? C'è stata una colluttazione e sventolatamente uno è morto. Ah. Ok, fa una chiamata al centralino, codice qualcosa, e arrivano due agenti. Fatemi vedere dove li porto in cantina. Dov'è questo morto? Li porto in cantina. Quindi cosa vengono? In due? Come al solito? In due, sì. Vabbè, ma che qua si è scemo, però sì. Questi sembrano gli addestrati, però sì. Gli hai detto che la gente fa bene. E li faccio sfigaccio strada. Ok. Li porto alla cantina. Arrivate in cantina. Poi non c'è nessuno, gli stai portando quattro agenti e c'è un cadavere. Poi adesso, dopo chiamerò anche mia madre, ovviamente. Ah, di che... mamma scea, ammazza la gente, però dopo. No, perché mi immagino tua mamma che scea per un bicchiere d'acqua in cucina e salve agenti. Sì, intanto io su WhatsApp, dico, scrivo, mamma è meglio che scendi giù in cantina, è urgente, situazione grave, lei capisce. Perché ormai allora, si capisce? No. No, cioè, siccome non lo scrivo mai, sa che sei urgente e grave. Che è grave, ok. Allora, la prima cosa che succede è che gli agenti vedono il corpo e vi fanno mettere tutti da una parte. In una parte della cantina, vicino alla scrava. Chiamano in centrale altra gente. Arriva giù tua madre e non può entrare perché un agente piantona la scala. E la senti urlare tipo, cosa è successo Francesco? Cosa è successo? Ci sono anche degli agenti lì giù, immagino, dove siamo noi, no? Sì. Allora gli dico che è mia madre ed è la padrona di casa. Cioè non sono io mai. Sì, ma voi siete testimoni e questa è la scena del delitto, quindi diciamo che non può entrare. Ah, ok, vabbè, sì, dico, diteglielo lei, cioè spiegateli qualcosa. Io chiedo se posso chiedo se posso un attimo salire per dire a mia madre rapidamente cosa è successo. Assolutamente no. Mamma, è uscito uno. No, ok. Vabbè, scriviglielo su WhatsApp. La questione grave, è morta una persona, quindi ora mi dovrete dire esattamente cosa è successo. Io lo so. Beh, io guardo Sceo della serie, Sceo è... allora, ormai parli tu, Arci. Cosa lei c'è? Secondo me... capito, stai facendo tutto. Va bene, tu? Ok, io chiamo la polizia, però secondo me Sceo sarebbe il primo che si vuole... Faccio un passo avanti e dico, c'è stata una colluttazione, questa persona ci ha aggredito, e nella foga io ho preso... e lui... no, cosa? Niente, l'ho colpito alla testa e purtroppo sono saltato e scoppio a piangere, ovviamente, nel dirlo, perché mi rendo di nuovo con cosa? Sinceramente sono sotto shock e nemmeno mi ricordo quale oggetto mi sono ritrovato per le mani, è la verità. Quindi voi tutti, chi era coinvolto in questa, diciamo, rissa? Yeah. No, direi... Io dico, cioè senza dire nomi, dico effettivamente non è che è stata proprio una rissa, nel senso che stavamo parlando, io dico che noi non lo, questo qua non lo conoscevamo e che era, dico, è un amico di un nostro amico, quindi non è un amico di Jacopo, e stavamo parlando di... Vedi che Jacopo è terrorizzato, non parla, ma è tipo, è bianco. Io dico, stavamo parlando in realtà così, a livello, diciamo... discorsi da serata tra amici, del più e del meno, abbiamo anche parlato dei supereroi, non mi stiamo, degli eroi. Si abbiamo parlato anche delle varie modifiche che ci sono in giro, degli Heroes, perché questo ragazzo studiava medicina prima, e da un certo punto mi ha detto qualcosa che evidentemente non è andato a genio e ha aggredito il nostro amico, tirandogli un pugno in faccia, Giulio. E com'è orribilmente in faccia? No, al busto? Ha tirato un pugno a lui. Senta, io avessi detto nulla. Abbiamo cercato di dirgli di calmarsi, ma ha reagito col pesce. Ha detto qualcosa che non andava. Abbiamo cercato di dirgli di calmarsi, ma ha reagito col pesce, giusto? E ti ha spaccato anche le costole. Sì, effettivamente, non lo so, io in teoria sto provando un gran dolore, secondo me. Infatti, diciamo che... quando respiri noi abbiamo provato a ma poi io l'ho tirato a fermarlo, però era, cioè, fatemi capire, quei 5 avete provato a fermarlo e l'avete ucciso, e questo è il risultato. Io l'ho spinto e lui è caduto per terra, il mio amico, lei, e si volta verso Yak e fa no io non ho fatto, cioè io lui non l'ha, voi vedete che si mette a piangere, lui non l'ha toccato, però noi, una volta visto che ha attaccato il nostro amico, abbiamo provato a fermarlo io ho cercato di immobilizzarlo e poi però è successo, però successo. Noi sospettiamo, in realtà no, questo dovresti dirlo tu, Sceo, io non lo so che cosa, che questo forse era super forte, io in effetti non lo so, ma cosa è che se questo cesto era super forte, in realtà non abbiamo direi sì, aperto sai, magari semplicemente arti marziali per dare, per rompere una costola non è che ci voglia Hulk, se tu mi dai un pugno può darsi che mi spari e mi fai male. Capito, si teneva, vada uno delle cose impregnate, mi ha spaccato il petto. Ah, maggior ragione. Cioè, io non posso dirlo perché non l'ho fatto, però cioè, magari ha fatto arti marziali, capito? Sinceramente, ha fatto uno, quindi ha fatto 10 danni, lui ha fatto 8, ha fatto 80 danni. Secondo, cioè, semplicemente mi ha aggredito, mi ha dato un pugno al petto, da quel momento mi si è chiusa la vena, non ci ho più visto e purtroppo... le si è chiusa la vena e quindi l'ha ucciso. Sì. Interessante. Le sei chiusa, e quante altre volte le sei chiusa la vena così? È la prima volta nella mia vita. Si sa, devi far ballare, devi far ballare più meridionale. Intanto, questo male avete bevuto? Sono poliziotti simpatici. Siete fatti di qualcosa? No, le sembriamo fatti di qualcosa. Cioè, sono fatto di... Ho cominciato a parlare di questo fantomatico professore che riguardando storie di mutanti. E come può verificare da quello che è successo... Al professore universitario? No, un professore che non ha a che fare con... Una persona chiamata il professore. Però se si ricorda l'evento di ieri... Una persona chiamata il professore. Che ha a che fare con mutazioni, mutanti, heroes, eccetera. Ed è la stessa cosa, certo, che è successa a noi. No, i dati esistono, però, è sala. Dovete controllare in questo senso. Però esistono, no, comunque tanti. Vorrei rimandare al fatto che noi siamo gli stessi. Sono tanti, ma non è che... No, nel senso dico, se noi parliamo di mutanti, non è quello parlare di fast food. È abbastanza fondamentale questa cosa, cioè il collegamento tra, sono gli stessi, la stessa gente che ha tentato di aggredire noi a Pianoro, Ah, noi, voi siete noi, stati noi siamo gli stessi ieri. Che siamo stati aggrediti appena ora da questi due armati che cercavano di fare esperimenti per conto di questo professore, della stessa persona. Proposizione questa? Cosa? È importante perché tipo una cospirazione, insomma. Questo non è quello, sappiamo, che è successo, quello che è... tipo il vostro lavoro indagare. Mi ha tirato un pugno allo stomaco. Beh, ah, è il nostro lavoro indagare, bravo. No, venga con noi. Li prendono tutti via manetta, no? Vabbè, posso finire di parlare? Cioè, io gli sto parlando. No, perché Vezza ha detto così, ti prendono, ti ammanettano. Vabbè, ci e sta, con gli altri e ti portano via. Cosa? Sì, va bene, te, tanto ormai, voglio dire, così almeno smetti di dire cazzate. Mia madre è lì fuori, no? No? Sì, ti vede passare a manetta. Sì, tua madre è lì fuori che è lì che urla, tipo, no, ma lasciatelo, cosa è successo? Adesso... Spiegatemi. No, legalità, deve morire. No, io dico, mamma, non ho fatto niente, quindi non starò, non dovrebbe essere una cosa lunga. Però... Non mi avrete mai! E tu, Vez? Qual è il problema? Ieri? Come potrà controllare? Beh, comunque, ci sarà un collega di ieri, comunque, immagino. Anch'io ero in servizio ieri. Eravamo stati sequestrati a vicino casa mia, Pianoro. Casa mia. Non è vero, non c'è nessuna denuncia, ma avete chiamato noi i carabinieri? Voi. Purtroppo siamo venuti qua, letteralmente qua, in questo posto. Non risulta da nessuna parte. E... abbiamo fatto una deposizione. Vabbè, continui. Non la interrompo. Cioè, noi siamo venuti qua. Avrete anche delle telecamere, penso, per controllare. È passato un Smith. Abbiamo delle telecamere. No, non lo so, noi siamo venuti qua. Sì, controlleremo, vada avanti. Ad ogni modo, eravamo stati presi, comunque gli o eravamo col professore o eravamo contro di lui, e ha tirato un pugno in questo pace. Ce l'ha detto anche il suo amico. Se vuole, non gli dico, cioè, mi dica cosa gli devo dire. Sì, ecco, mi dica una cosa. Con cosa è stato ucciso il vostro amico Giorgio? Guardi, io ero nella colluttazione, per cui non so, cioè nel senso, dal mio punto di vista io cercavo di fermarlo con un bilanciere. Perché, vede, non c'è nessuna arma nel posto, non vorrei che l'aveste nascosta facendo una cazzata. Credo che il colpo che gli ha rotto la testa l'abbia tirato il mio amico, per cui io non lo so. Chiedo al mio amico. Con un pugno? Non lo so, io ero nella colluttazione, cioè ho visto che anche lui si scagliava contro e poi ho visto la macchia di sangue. Va bene. C'è un manubrio, non mi ricordo. Cioè, se si scendeva sotto un disco. Sì, no, ok, ma è accaduto tipo 3 secondi fa, quindi me lo puoi anche dire, cioè. Beh no, magari lo shock te l'ha fatto dimenticare. Vabbè, no, era ma guardi, il mio amico, lui ha una palestra giù, per cui ha questi manubri particolarmente grossi. Non so se è un manubrio o un bilanciere, non sono un tecnico della palestra, lo dica lei. Va bene. Ah, io non lo so, glielo dirà la scientifica. Benissimo. Bonna, cioè. Va bene. Ah, niente. No, argomenti pregnanti. Sì, esatto. Pregnanti. Comunque, cioè, ci sono le mie impronte, quindi non credo sia un problema trovarle. Chi va dentro? No, ma infatti io lo chiedo a lei per vedere se tutto poi combacerà. Va bene. Spero di essere stato di aiuto. Il prossimo. Ah, un'altra cosa. Scusi, posso aggiungere una cosa? No, facci la polizia. Potete farlo, poi le prove vedono se avete detto una cazzata o no. Vabbè, allora io glielo dico, io regalico la verità. Io invece non... Potete accordarvi su cosa volete, dovete dire, non è quello. Vabbè, no, comunque, no, catta. Va bene. Allora. Il racconto com'è andata. Cata, tu sei sporco di sangue completamente. Esatto. No, un po' sei lavato giù in cantina. Sì, giusto per togliermi i pezzi di cervella dagli occhi. Anzi, rischio anche di trasmettermi delle malattie così. E, comunque, la dinamica è stata questa. Cosa eri immobilizzato? Una voce fuori campo che ha dato headshot. Lo stavo tenendo fermo per evitare che colpisse i miei amici. Perfetto. I tuoi amici hanno colpito me. E lei sa questo professore chi è? No, ma ho un grossissimo sospetto che sia lo stesso che ha cercato di ucciderci l'altro giorno. Perché l'altro giorno non avete sporto denuncia? Mi sembra strano che non abbiamo sporto denuncia. Io francamente dopo che mi è stata puntata una pistola di fronte e mi è stato detto ah sì, ti posso uccidere tranquillamente, ero abbastanza sotto shock e comunque ed ero anche in una condizione di come si dice? E questa sera si sente da poi il signorino. È tornata ieri sera, a pianoro eravate sei, siete stati aggrediti dal professore, poi siete tornati tutti a casa felici. Siamo stati aggrediti, lei è passata in ospedale, da questi due sgherri del professore che spero siano in vostra custodia, perché siamo riusciti a ha chiamato noi i carabinieri ancora. No, nessuno di noi è stato a Pianoro. Ieri è stato chiamato a Pianoro, non abbiamo in custodia due persone, non sappiamo nulla di questo professore e non ho capito questa storia dell'aggressione quando che cosa sia. Ieri sera due... È sicuro di non aver preso qualcosa? No, sono può farmi l'analisi del mio sangue. Ma l'ha chiesto, se mi farebbe piacere sapere di che cosa c'è nel mio sangue. È ancora verde, sì. Lui sì, lo vede. Cioè, ancora... il poliziotto lo vede che è verde. Sì, sì, ma gliel'ha anche detto. Però lo vede, dico, non penso che sia una pazzia quella del sangue verde, lo vede. Chiamato con il cellulare, polizia mia. No, pensa che sia una pazzia la storia dell'aggressione. Ma può controllare le chiamate che abbia fatto, che hanno fatto i miei amici. Ah no, no! Ci abbiamo chiamato col mio perché poi Arsci, perché mi hanno detto ma è gratis chiamare la polizia. Quindi ho chiamato con conto. No, io ci devo chiamare col mio comunque. Quello dopo. Sì, abbiamo anche... controllato, ma ieri non ha chiamato nessuno da Pianoro e le ripeto, non è stato arrestato nessuno. È anche venuto è venuta anche un'ambulanza a farmi ricoverarmi. Vabbè, senta, controlleremo, però le dico già che io ero qua ieri e non è successo niente. Però vabbè. Controlli perché ci hanno cercato di uccidere, sono morti due agenti di polizia. Un verbale ci dovrebbe essere. Gli agenti di polizia sono morti, interessante. A me non pare, non risulta, però va bene, ok. Guarderò. Tra poco uno comunque muore. Buonasera. Non è normale. Per educazione si saluta. Cioè, mi sta chiamando il tizio. Com'è andata? Io racconto tutto perfettamente nei minimi dettagli. Dico, siamo trovati io con gli altri miei 5 amici e per parlare appunto, per fare una serata così, siamo usciti a prendere una birretta e poi dovevamo andare a giocare giù nella cantina da me a biliardino e c'era anche questo amico di Jacopo che è Giorgio, la vittima. E nel parlare di sì va bene, ora mi dica se sbaglio qualcosa. Dunque è cominciato un discorso su un certo professore. Sì, il discorso però è partito da qualcuno di voi era in disaccordo, questo Giorgio si è arrabbiato. Sì. Ah no, ha colpito, è cominciata una sorta di tafferuglio, rissa, qualcosa del genere. No, non è proprio così. Questo Giorgio si è arrabbiato e ha colpito il mio amico Giulio. A quel punto, okay, io, che essendo il padrone di casa e non volendo casini, ho detto non è il caso di arrivare alle mani per una cagata del genere, perché era davvero un discorso così tranquillo. Mm-hmm. Lui, in tutta risposta, ha colpito anche un altro mio amico, Stefano, e facendogli anche parecchio male, credo che abbia qualcosa di... credo che abbia anche una costola incrinata. A quel punto, che ha colpito anche l'altro mio amico, io gli ho tirato una spallata, la salma, e il mio amico Enrico, una volta che questo qui era finito a terra, l'ha immobilizzato. A quel punto, Stefano, Stefano, urlando voglio diventare un poliziotto, ha colpito... A quel punto Stefano ha preso un disco di ghisa, di quelli che avevo io, mm-hmm, che avevo in cantina, e ha colpito alla testa Giorgio. Ok, lei sai che lei è l'unico fino adesso che mi ha detto qual è l'arma del delitto? Beh sì, sono entrati però in due. Sì, però lei sa magari anche dove è finita quest'anno. Io credo che se non è lì giù in cantina, evidentemente è stata nascosta. Ah, e chi di voi l'ha nascosta? In realtà l'abbiamo nascosta di comune accordo. E ovviamente se glielo sto dicendo è perché comunque gli possiamo dire dove. Gliela possiamo tirare fuori l'arma comunque a un disco di ghisa. Che cazzo facci? Tu non sei. No, lo puoi sentire. Mi pare dell'aggressione di ieri l'altro. Sembra tipo l'interrogazione, va bene. Vabbè. Ieri l'altro nacque nel 1422. Ieri mi dica anche lei è stato soggetto a un'aggressione. Sì, eravamo tutti quanti insieme su alla località vicino a Pianord, il mio amico Andrea Giacomo, in casa in campagna da lui. No, ok, va bene, mi interessa la storia. Voglio sapere questa storia dei poliziotti dei due sospettati. Io gli passo il cellulare con tutte le registro delle chiamate e gli faccio vedere che c'è una chiamata con risposta, cioè in cui hanno risposto i poliziotti. Gli faccio vedere il numero 112. E l'orario. Ok. E l'orario. E questa chiamata però non risulta nei nostri archivi. Ieri non sono morti i poliziotti, allora, e non sono stati arrestati, nessuno è stato arrestato. Io gli dico, io ho chiamato il 112, quindi a meno che o la polizia ha cambiato numero, oppure... Inception. Esatto, oppure è stata intercettata, non so come, la chiamata, dico, questi due che si sono recati sul posto erano vestiti da poliziotti. E sono anche morti, ci sono due cadaveri, sono anche stati portati via. Ma poi mi ha chiamato di nuovo la polizia, tra l'altro. Non puoi parlare con loro? Io dico, poi abbiamo chiamato... Cioè, ci sono molti poi altri. Vedi, i residenti sono programmati per non accorgersi. È la nuova narrazione! Esatto. No, vabbè. E comunque sì, le ripeto, non risultano poliziotti morti no, ieri. Comunque dico, se poi in servizio, siamo comunque stati portati a Bellaria, sia io che il mio amico Enrico, perché aveva bisogno di andare in ospedale, e lì... Due poliziotti, o comunque due tizi vestiti da poliziotti, ci hanno fatto fare una deposizione. Quindi probabilmente se va anche in ospedale a chiedere al medico che ci ha visitati o al personale medico dell'ospedale, probabilmente due tizi vestiti da poliziotti vi potranno confermare che li hanno visti. E nel caso non lo facessero, ci vuole una bella visita generale. Ah, una bella visita generale! Ma accento pugliese, okay. Siciliano o campano questo poliziotto, visto da... Ok, tornate tutti e adesso chiama Jack, intanto voi potete parlare da lì. Vuoi Jack? Ma una cosa, io chiedo a voi, Jack è consapevole che abbiamo nascosto l'arma lì? Non so, l'ha nascosta a mezzo, la prima cosa che ha fatto adesso. Beh, credo proprio di sì. Ma dico, io ho detto che eravamo tutti comunque d'accordo, perché se ne siamo accorti tutti, no? Nessuno era d'accordo, io non ero d'accordo. Ma neanche io, però l'abbiamo visto, quello voglio dire. Sappiamo sì. Tutti dov'è. Quello sì. Dico. Non è che io ero girato, non lo so. No, sappiamo tutti dov'è. Okay. Però, cioè, tecnicamente, noi non sappiamo tutti, dov'è, sappiamo tutti com'è stata nascosta. Noi sappiamo cosa ha fatto. Sì, poi in realtà non sappiamo se è là. Il discorso è che sappiamo tutti che l'arma del delitto è stata occultata. Sì, d'accordo so. O meno, sì, nel esatto. Momento in cui non abbiamo in realtà niente. Non sappiamo se è là, invisibile, o se ce l'ha addosso Jack. Sì, sì, certo. Questo non lo sappiamo. Perché magari potrebbe essere... Ma l'ho nascosto io? No, io ho detto che abbiamo nascosto l'arma di comune accordo. In realtà è la verità. Vabbè, ma perché nel momento... Cioè, la messa di Arezzi, sì. Noi non eravamo d'accordo, ma nel momento in cui siamo stati tutti quanti zitti era come fare i complici, cioè c'è poco da fare. Senti cosa, non abbiamo avuto mica tempo di far nulla. Mi ha preso una... Sì, ma quando è venuto giù in cantina a farci l'interrogatorio, ha detto con cosa è stato ucciso, ci ha detto non mi ricordo, Betty ha detto non mi ricordo. Nessuno ha detto nulla, quindi io non me lo ricordo nulla, anche quando stavo parlando, Renzo ha fatto una battuta e ci hanno arrestato. Io non me lo ricordavo, arrestato, semplicemente ho visto le manette. Io non me lo ricordavo, io non l'ho detto per. Cioè, io mi sono immaginato come ho reagito io in quel momento. Era ho ucciso un uomo, non stavo pensando ad altro. In questo momento sto realizzando che effettivamente sì. Mi ricordo che voi l'avete nascosta, e sì, cioè, ero d'accordo anche io, nel senso che non ho fatto niente per fermarlo. È vero quello, salve. Vez, con la cioccolata che è dolce, ci sta bene un brindisi. Salviamo l'ultima patatina? Vabbè. Dove? Adesso non so, se parla di là. Stavo, penso vero che sei in certo, per l'ultima sessione. Che? È vino quello? No, questo non è vino. È te. neanche te. Ok, c'è qualcosa che avete omesso o che avete detto di particolare? Io ho cercato di dire tutto quello che mi hai chiesto. Cioè, tu immagini che abbia detto io tutto quello che mi hai chiesto. Io sono stato qui con te, testa di cazzo omicida. Io ti dico tutta la verità. Testa di cazzo omicida. Rega, c'è qualcosa che c'è una no, cosa che voi non sapete. Il cellulare, mi hanno sequestrato il mio cellulare. Io sono diventato super cattivo. No, c'è una cosa che voi due non sapete. Ma due chi? Tu, io e te. Come fai a sapere che non esatto. Sai? Perché noi abbiamo investito. Polizia, è il professore! Lui dice la chiamata. Ah, scusa. Grazie per il cristallo. Mentre eravate a chiamare la polizia, impegnati a farci arrestare. Di gufi, non di anime. Noi abbiamo fatto qualcosa che forse non avremmo dovuto fare. E ha chiamato di nuovo il numero privato e non abbiamo risposto. Ah, e chi era? Era la Rotillo. Era io. No, era, era una donna che chiedeva se Giorgio stava bene. Io gli ho detto che non stava molto bene. Prima, no, prima che potevate essere. Passare. Però non gli ho detto che era morto. E poi mi ha chiesto cosa sapevo dei piani di Gandalf. E gli ho detto tutto, no scherzo. E, se Giorgio ce l'ha convinto. E ha detto se Giorgio, esatto, ci aveva convinto a passare da tra parenti, questo lo dici piano? Sì, ti sentono anche i poliziotti. Dico, siamo lì, lo dico, cioè non mi pongo il problema, cioè non è che metto lì, attenzione, attenzione! Però immagino che ci sia un... Gli chiedo, in questa cosa avete poliziotti tu? No, sì, sono cosa è successo ieri, che mi sono morto. Gli dico, hai fatto bene. Cioè, gli ho detto che abbiamo risposto e questa qui però non ci ha voluto dire no. Dico, però questa cosa fa conferma che Giorgio comunque era legato al professore. Ci fa capire una cosa. Io penso anche che noi siamo abbastanza fottuti, perché a quanto pare questi, non so se vogliono giocare a... gatto col topo, però probabilmente gli hanno tolto i record della cosa di ieri. I record. Qualche... Io ti chiedo, anche te hanno detto che, anche te hanno detto che non ha niente di... Non hanno niente, probabilmente rega adesso, non vorrei fare il pessimista, però secondo me sono abbastanza fortunati. È passato Will Smith. Nel senso che loro... Comunque i due cadaveri... Proprio... Il Giulio Bodi, Bodi Giulio. Aspetta, faccio come... Inizio con te. Per la deposito. Aspetta. Problemi tecnici. Ma quindi tu vedi sa prova. Non sai più che lui vede il tuo culo in questo momento. Te ne sei reso. No, è il mio culo, è la mia cosa. E... ok, meglio. Portale. Andrea. Ah, bene. Vede che le informazioni vengono fuori. Ma nessuno ha nominato un po'. Bene. No. E perché l'avrebbe nascosta? Questo non glielo so dire. Io, tra l'altro, se avessi potuto glielo avrei impedito, ma... Quello stronzo! Non ho avuto la possibilità. Chi è? Un prigione, pezzo di merda. Non ho avuto la possibilità. Anche perché... mi scusi, l'ho interrotta, stava dicendo. Stava sputolando il suo amico. Se avessi potuto gliene avrei impedito, ma non ho avuto l'occasione, anche perché ero più indietro rispetto agli altri. Non l'avevo ancora colpito, purtroppo. Comunque, riprendo... Ok, vabbè, stavamo parlando con questo Giorgio, e appunto lui ha iniziato a dire che c'è questo gruppo di heroes che fanno con capo, non so se... Evitano? Quindi mi sono allontanato perché avevo ricevuto questo pugno in pancia. Non, in verità non mi aveva fatto molto male, però. Va bene, non mi interessa la diagnosi. Mica chi ha ucciso chi, quando e come. Emanuele? Non so bene. Comunque, quando mi sono riaffacciato... Magari era già morto quando l'ho colpito. Mm-hmm. Ma non mi sono riaffacciato dalla soglia. Io comunque si ero Cioè, un po' picchiato. No, quando io gli ho dato la spallata. Ma guarda Giulio! Io l'ho, l'ho visto, mi sa, Sceo, perché mi ero appena riaffacciato, sì. Mi ero appena riaffacciato e in pratica Arcidiacono era riuscito a buttarlo a terra, a buttare a terra Giorgio. Catabriga era riuscito a immobilizzarlo, diciamo, o sembrava. E in quel momento... Ok. Quella di ieri. Sì, l'aggressione di ieri, lei c'era? Sì, erano andati su a casa in campagna di... di Andrea? Sì, sì, sì, va bene la storia, ok, l'ho già sentita questa storia. Vabbè, ma non dica, avete chiamato la polizia? Sì, ho chiamata io la prima volta e ho ricevuto anche la chiamata dai, dai diciamo, quelli che avevano sequestrato gli altri. E ho ricevuto due chiamate da quelli che avevano sequestrato gli altri. E, potete vedere... E sono morti due agenti? Sì, perché... noi abbiamo chiamato una volante che è arrivata, questi agenti sono... Capito, ma in verità non è che mi metto a dire come fare il lavoro a un poliziotto. A questo punto io gli continuiamo a affidarci alla polizia, ok, ok, inquadrami, è il mio momento. Devo confessare un omicidio. Mi inquadro. Signor Gamberoni. Eccolo! La folla si alza in piedi, per favore. Sì, basta un po'. No, vabbè, entro. Ne hanno già preso le generalità, domanda. Sì. Se no gli do i documenti. Io la voglia. Ah, ok. Da un'oretta e mezza, da quando sei sono un abitue. Entro e gli dico salve. Salve, ne ho ucciso un altro. Nel frattempo lui era fermo. Posso tornare da pisciare senza avere una condanna a morte? Ne ha parlato in Italia non c'è. Non so quali dettagli gli abbiano dato. Se gli hanno parlato della telefonata... Siete tutti in cella di custodia. A un certo punto arriva un agente. Cioè, fammi capire una cosa. Agli altri ha fatto mille domande, a me che magari vorrei cercare di spiegarmi, difendermi, non mi fa parlare. Sì, sì, hai confessato l'omicidio, ti spiegherai in tribunale. Mi spiegherà sotto la doccia. Comunque dico, c'è una vaga possibilità che qualcuno di noi si ricordi anche solo due lettere della targa della volante. Vado un test. Cioè, oggettivamente, sei lì per arrivare anche a polizia che viene in tuo soccorso, c'è. Cioè, non lo so, magari ti rimane come disse Antonio Conte una volta. È un complotto! Testimone lui che mi ricorda le prime due lettere della macchina di Fabro, nonostante l'abbia vista poche volte nella mia vita. Sì, ma non hai una fissazione per la gente, spero, ce l'hai solo per Fabro. No, però magari a uno di noi è rimasto impresso tre cifre e lui può fare un controllo veloce e vedere dove era la volante, non lo so. Chiama lo zio e chiedi. No, zio, hai spinto talmente tanto e gli ho ammazzato. Ci avete guardato ieri? Non lo so, può esserci rimasto impresso. Comunque siamo Lei? Non mi ero accorto di questa cosa. Non si è accorto di avere i piedi palmati? Già. Io te ne vedo. Te ne becca il zio. Vabbè, cosa mi fa la macchina della verità? Sì, sì, ho preso. E d'accordo, comunque questa mutazione è qualcosa di grosso, perché le mutazioni, diciamo, puntiformi non creano, è difficile che creino un fenotipo così evidente. E, non so di cosa lei nel caso la terra. Scusa un attimo, Stalla, posso fare la mia posizione alla cosa, dico? Non sei... Sembra che abbia le gambe più corte che sia cresciute meno le gambe del resto del corpo, sì, però effetti... magari la mutazione si è estesa anche a quello. Però dovrebbe ridermi in faccia di dice queste cose. Ehi, a quanto pare è molto brutto, oltre che essere un assassino di merda, quindi nessuno sentirà la mancanza. Effettivamente internato ieri è come se si fossero accorciate le gambe di pochi centimetri. No, io in questo momento mi riferisco ai riflessi della sua gamba destra, sono davvero rallentati rispetto alla gamba sinistra. Però vinco lo stesso. Non è il fatto che abbia sviluppato la coordinazione, ma le mie gambe mi preoccupano seriamente. Sì, di solito non ci sono grosse evoluzioni di queste cose, però è un fenomeno piuttosto nuovo, non è che ne conosciamo tantissimo. Comunque la terremo sotto sorveglianza, sicuramente. Ok, grazie. Ok, Katta? Tutto bene. prego, mi dica lei. Io ho fatto degli esami l'altro giorno, sto ancora aspettando di capire quale mio potere. Esatto, di capire quale mio potere. Abbiamo i suoi esami. Ah, allora. Mutazione genetica. 2, 5, e qui finisce la trasmissione. Comunque sì, terremo anche lei sotto monitoraggio. E... ci tengo, dottore. Arci. Sì, salve, dottore. Io ho due rigonfiamenti qua che sono disumani. Io, a destra. Però mi hanno detto che sto forte mal di testa. Stuprano in caccia, ragazzi. Oh, guarda che cacca, prova ad andare da una. No, come vedete, scusami, dicevo, non ce la fa, troppo grosso. Detto? Mi hanno detto del suo forte mal di testa e sì. Ti mette degli elettrodi e ti fa un esame simile a un elettroencefalogramma. Io intanto, cioè, immagino per parlare proprio del più del meno, gli chiedo che medico è, che specialistica ha. Sì, faccio adesso il curriculum vitae. No, io chiedo. Ma in questura non veramente. Lui risponde, ma mi chiamano il professore. No, e le differenze rispetto. Cioè, tutti quanti anche a scuola. Cioè, è a bicipite, cioè. A bicipite anche il cervello. Sì, sì. Anche il cervello, anche. Ha notato qualcosa di strano? Oddio, che io ne sappia. A parte il mal di testa che mi è venuto il giorno dell'esperimento, no. Okay, vabbè. Vabbè, suppongo che si manifesterà con tempo. Ma è una cosa grave? No, di solito quelli che hanno un sintomo di questo tipo sviluppano poteri psionici. Però sì. Ma non mi danneggia a livello. No, non dovrebbe danneggiarla. Di solito danno capacità in più rispetto alle persone normali. Ok, può andare. E faccio entrare Romano. Puoi per favore la boccia per l'ultima sessione a casa di Rancelli. Ah, dalla prossima siamo già... Non so. Però la prossima volta non possiamo fare un'altra cosa. Vabbè, prenderò un'altra bottiglia. Sì, questa è la penultima sessione. Allora. E che facciamo comunque uno sboccio. Vabbè, uno sboccio ci sta. Arrivo! Per me può andare. Quindi fai cosa... Non ci rompono più il cazzo, ci lasciano dormire. Sì. No. Verso le 4 arrivano due agenti. Dicono: bene, sono stati uccisi l'altro giorno. Abbiamo fatto. Svegli? Dovete essere. Io dormo. Dovete Giorgio. Essere trasferiti. Svegli dove? No, mi trasferisco il 15. Rega, dovete essere trasferiti. Sveglia. E trasferiti dove? Io ti posso andare. Trasferiti dove? Beh, trasferiti come? In un posto più confortevole. Sì, mio signor! Più confortevole, ok. Ma nel frattempo... Quindi possiamo tornare a casa. Noi sappiamo se hanno chiamato i nostri genitori, le nostre famiglie. Sì, è vero. No, voi non sapete nulla. Digno, scusa. Mi sono scordato all'inizio sessione. Digno. Ti volevo dire che io avevo usato 5 punti esperienza, mi sono scordato. Ah! Avevo usato... Per cosa? Per fare disattivazione volontaria, 5 punti esperienza. Ah, io Salla volevo cosare la mia... Volevo tirare un D4 per la psiche. In teoria no, okay. L'altra volta me l'ha fatto fare, ma in realtà no. Però se ti volevo dire, come hai deciso di farlo? Tu puoi dare qualunque ordine, se tu gli dici di andarsene via per sempre. In teoria non è con Ico, devi finire la parola. Grazie. Più che altro, ecco, io quando lui chiude lo spioncino, quelli del naso, chiedo ai Rega, dico, secondo voi questa prigione è effettivamente una prigione per quelli che magari sono heroes, eccetera, o ci sta portando in un luogo, a notare che non si fa così un esperimento, loro me lo sparano. Quindi probabilmente dico, cioè, se tutti questi poliziotti fossero collegati al professore, avessero dei suoi ordini in qualche modo, magari, i Kata se ne sarebbero sbarazzati prima. No, vabbè, nel senso. Cioè, magari i loro piani non sono così saltati. No, ma magari. Tra l'altro, perché si dovrebbero sbarazzarsi di Katta, che ha evidentemente. Magari l'esperimento è andato male. No? Quando gli ha detto, quando lui al tizio ha detto sia del sangue verde, sia della capacità di modificarsi le cose, ha detto chi se ne frega, ammazza. Boh, però è strano, rega, è strano. Perché il mio esame medico mi ha detto che non ho delle modificazioni genetiche. Io non so far nulla. Ma mi ha detto che ho. Posso tirare per cipire? E fuori non c'è un bosco. Okay. Sì. Io dico se vi serve una. Io so, non sono bravissimo, però comunque posso dare un'occhiata al motore se non sapete cosa c'è. Che cazzo stai dicendo? Torna dentro, non fare. Perché è aperto? No, non sono fuori, io sono dentro. Che cazzo. Come cazzo hai fatto aprire la porta? Non l'ho aperta io. Non l'ha toccata, non so. È aperta da solo. Richiudetela. Scusami, voi mettete una porta così. Ma che cosa? Mi tiro la pistola, prego. Ho il permesso di uccidermi. Io dico, scusami, voi mettete una porta panicata e prendo da. Cioè, siete difficili da trovare. E vi prego, salite in macchina, così possiamo parlare. Abbiamo alternative? Tu sei. Io gli punto la pistola. Come? Contro. Abbiamo alternative? Beh sì, potete rimanere qua e essere accusati di duplice omicidio di guardie e peggiorare ancora di più la vostra situazione. Io metto una spalla, una mano sulla spalla di Ari, spalla sulla mano di Ari. È un po' scomodo però. No, metto un... Aspetta, gli altri. Vinco i miei amici. Ma io gli ho fatto una domanda, prima. Dico, sì, dico nell'orecchio di Archie che questi hanno un cecchino da qualche parte, se non veniamo con loro faccia la fine dei poliziotti. Si può immaginare. Dai rega, cioè questi sono molto più potenti della polizia, se hanno paura della polizia. Questi sono addestrati davvero, cazzo. No, questi hanno un cecchino che ci sta dando contro. Piuttosto che la morte. Comunque i poliziotti che ci hanno dato in affidamento, perché ci hanno, diciamo, noi vediamo scordati i poliziotti fino a qua. Cioè, ho capito. Sentite, avete due possibilità. Fai per dire gli altri uccido. Prova con tecnicamente, Giulio. Tecnicamente. Dico a Sceo, tu accendi il motore? Sì. Io gli dico, Sceo, non è gente che lascia testimoni in giro questo. Neanch'io. Ha rubato un furgone per i detenuti, non andare lontano. Vabbè, se Scio mette in moto dico vabbè. Aspetta, Scio. Almeno vado con qualcuno che ha qualche capacità cognitiva piuttosto che con un assassino idiota e scendo. Aspetta, Scio, voglio tenermi tutte le opzioni aperte, mi sdoppio e battermi. Ci mandi con lui quello là. Io non ci voglio andare con tuo amico. E mando un altro a scappare nei boschi, non si sa mai. Esatto. Quando guardo la cavata, ti ho messo casino. Ma tu, assassino di me. Ok. In effetti, su questo punto, Giulio ha ragione. Cioè, se dovevi uccidere qualcuno, magari non davanti ad Archie, che poi ci porta tutti in polizia e ci mette già con la condanna scritta. Raga, dai, non credo che voi aveste... Io, guardi, se possibile, chiederei... Vorrei un ergastolo, ma magari per i miei amici un paio. Veda lei. Tu avresti davvero... Ne ho messi tre, lasci. Tu avresti davvero occultato un cadavere, non credo. Ma con i superpoteri puoi fare qualunque cosa. Va bene, non mi interessa. Raga, buoni. Allora, il tizio guida per un po'. E, vedete che va in una sorta di viottolo in campagna. È uno solo e arriva è uno solo sulla macchina, è quello che vi ha detto. Io mentre stiamo andando in macchina guardo un po' Katta, Sceo e Vez e Giulio della Iacchio, per capire se nei loro sguardi c'è della serie, che bella questa scampagnata nei boschi, oppure... Ma sto pensando che mera è la situazione. No, oppure, visto che il tizio è uno e al volante, e noi siamo in sei... No, quello non lo sto a pensare. Non so più neanche dove siamo. Riconosco più o meno che zona di Bologna o dove potremmo essere. Anche no, tre ore potremmo essere. Dopo tre ore non siete più a Bologna. Sì, dove potremmo essere. No, la posizione fare... delle stelle. Potremmo essere più o meno. No, comunque. Però in questo momento ricordi la targa della Jeep. Vabbè. Potremmo essere da Genova, Torino, Milano. Capito, un cartello comunque con un numero di chilometri da una località verrà posto. Se sei su una strada tipo da Vezza al Casetto, no. Figurati, siamo in uno sterrato. No, ha detto un sentiero. E sei? Un sentiero asfaltato con i cartelli che sono andati. La strada è asfaltata, immagino, no? Merda, ma questa città fa il Sceo, Sceo, 2GS, C6. Oh, ma come adesso te la devi ricordare? Magari ti la servici prima. Non me la segnerei. Sta grammina è la targa? Sì. Ok, arrivate in questa villetta. Cosa vuol dire? Sala, non abbiamo visto neanche un cartello con una targa, con un'indicazione stradale. Sì, l'hai appena detto tu. Personalizzata. No. Scusa, ma è una targa italiana. Arrivate in questa villetta. È una targa italiana. Ora so che sei un po' francese ultimamente, sì. Ma 2GSC6 non è una targa italiana. È il master. Sceo, te lo ricordi tu da due giorni dopo della Jeep? Non è che io ti devo dire se è una targa vera o no. Ok. Beh. Ma come quel telefono. Come telefono. Come quel telefono. Ciao amica di Giorgio. Ciao. Che bel cramo. Buonasera. Vedi che facciamo un po' di casino. Quindi... Cosa sta facendo Alex? Sta chiamando Ian. Non è regalo. Anche io devo andare via tra poco, siamo dopo. Ciao. Ciao. Ascolta tutto. Vai Salla. Siamo stati presi da un tizio. Davvero senti la risata di Yak? Un tizio. Sei Yak? Sì, anche nel gioco ci hanno rapito. Ci hanno rapito Arci. Arci, sono molto lì, sai. È stata più o meno un'uscita come quando ero al Giappo, che ha detto ma allora mi ci farò la valetta, che lui gli ha detto sì, alzami. Vabbè, Yaki, ascolta la voce tonante di Salla, che ora siamo arrivati da una tizia che ci spiega quali sono i nostri poteri. Ma dove cazzo siete adesso? Io non mi sto sentendo comunque. Siamo a casa di Vez. Compleanno di Vez. Sei il mio voce. Vez. Compleanno. Tanti auguri. Sì, ma vedi. Cioè, lui l'ha ucciso. Cioè, lui. Tu lo stai indicando, Sceo. Ma dai. No, nel senso io dico comunque che non è che abbiamo ucciso lui per divertirci, lui ha iniziato a colpirci, non voleva fare. Invece no! Ma sì, raga, cioè adesso avete fatto bene a uccidere Giorgio, siete stata vendita la difesa, non capisco cosa sono queste minchiate democristiane che vi state scendendo in collo e averlo ucciso. Ma è tuo amico, Yak, è tuo amico, era tuo amico! Vedi, lui ormai è dalla nostra parte, e poi cosa dite? Sì, perché Yak non sta giocando di ruolo. Certo che sta giocando di ruolo, lo stesso, cazzo. Cioè, dei punti di vista, cioè, Vigna magari avrà pensato... Continuare a giocare al posto di... Va bene, Yak. Grazie di averci sopportato per qualche minuto. Ciao, Jacopino. Ci sentiamo presto. Sabato c'è Fede. Ficcatevi le teste. Sì, ma anche la tua però, perché ci sei anche tu lì. Sì, ma ma io dico proprio, poi quando vi dico in carne e osso, lo facciamo anche in carne e osso. Che bello. Oh, okay, poi seriamente, se quel cazzo di film che pensavi facessero nei cessi pubblici vuoi vederlo? No, era nei tabaccai, Yak. Ma in tante cose. Sì. Ci provo un film, esce il cinema. Va bene, Yak, dai, ci vediamo nel prossimo tabaccaio. Ciao, Giorgio. Ciao, Giorgio. Yak. Salutami, Giorgio. Io gli dico che è Giorgio che ha iniziato la colluttazione. sì. In cui non voleva aiutarmi. Capisco. Io voglio solo. No, io volevo aiutarmi. Che questa storia finisca. Giulio, beh, facciamo un altro gioco di ruolo. Io volevo aiutarvi. Allora, dunque, intanto le buone maniere. Io mi chiamo Claudia. Claudia? Piacere, Claudia. Claudia come? Brazzo. No. E sono qui per conto del professore. È da un bel po' che ignorate le sue... diciamo i suoi messaggi, anche se abbiamo fatto di tutto per crearvi e arruolarvi. L'ultimo messaggio era un po' disturbato. Sì, soprattutto quando ha detto a qualcuno di puntarmi una pistola addosso e fare fuoco. Sì. Ah, ma si è stato malinteso, non sapevamo delle vostre potenzialità. Cioè, neanche uccidere un uomo a sangue freddo, non è da tutti. Cioè. Beh, in realtà gli uomini sono a sangue caldo, e comunque... e comunque è stato Stefano. Ci sta cercando, sì, di arruolare, sì, lo sappiamo bene. Ci sta cercando, diciamo, di arruolare per cosa esattamente? È stato un po'. Hai cercato un assassino, un mercenario? Stefano è uno dei migliori. Però che sangue freddo non sono le parole esatte. Non cerchiamo un assassino, un mercenario, cerchiamo dei collaboratori. Cosa. Vedete, vedete il dopo l'esplosione di CERN e l'inizio di questo, di queste mutazioni e di questi poteri. E diciamo, ufficialmente ci sono squadre, c'è pubblicità per cui va tutto bene, e siamo tutti felici, Miros e gli umani possono convivere, ma la verità è che non è così, e spesso, come stava per succedere a voi, Miros vengono portati in prigioni segrete e tenuti lì, in attesa di sapere cosa fare di loro. Il professore non vuole questo, il professore vorrebbe che tutti gli Miros fossero liberi, con uguali diritti, e per fare questo diciamo che a volte sono necessarie maniere forti, però abbiamo bisogno anche di voi, abbiamo bisogno di altri heroes, bisogno di aiuto, come voi avete bisogno del nostro aiuto. Quindi voi sareste buoni, nella vostra visione, dico. No? Non ci sono buoni o cattivi. Gli dica che siete legali, diciamo che tutto quello che spesso alla fine giustifica i mezzi. Come prima. Oh, il titolo della puntata. Fallo scadere. quindi avete visto. Ma rinchiudo. No, ma per gli scherzi comunque, Solla, quando ci sia un buon momento per interrompere, decidilo tu, perché io comunque vado verso. Così. Vabbè, come volete voi. Cioè, potete anche rispondere alla tizia o decidere la prossima volta. No, se diciamo che io volevo farvi picchiare con della gente, però ci siamo allungati un po' avanti. Se con la tizia dobbiamo fare una discussione, nel senso dobbiamo dire come la pensiamo noi, magari metterci d'accordo, eccetera, fare la pausa. Io visibilmente stanco le dico tipo sì, qualunque cosa purché si ritorni alla vita normale. Ah no, ma ormai è mattina tipo. Sì, sono tipo le 7. Sì, sono le 7 e mezza. Posso fare una domanda? Io sono in catabolismo tipo da 10 ore ormai. Giorgio era un hero anche lui. Giorgio è un mio, anche lui, sì, tutti gli agenti del professore wow, sono io. Wow, era fortissimo. E che poteri aveva, per curiosità? Che divano un sacco d'ex. Come avete fatto non a avere usato il disco no, che poteri aveva? Di IA? Cioè, che l'avevamo nascosto da IA. Beh, abbiamo risorse molto potenti. Beh, lo sapete anche voi, i poteri dovuti alle mutazioni sono molto forti. E quindi siete intervenuti anche voi per modificare la memoria della polizia e voi i loro dati. Esattamente. Quindi queste carceri segrete dove metterebbero gli Eros per metterli praticamente nasconderli e farci esperimenti sarebbero tutte cose gestite direttamente dai governi? È colpa di Renzi. Sì. Stati? Cosa noi pensiamo, o meglio il professore pensa che ci sia dietro una sorta di cospirazione. Quindi vota no. Però il professore vota no, non vota no. Perché dovrebbe votare no? Cazzo c'entra, Renzi è una marionettina. Bravo, vota no, mi piace, io sono il professore. E allora io GDRS dissocia dal messaggio politico. Comunque sì, sono d'accordo, sono convinto anche io che ci sia una grande cospirazione dietro. è che cospirazione. Scie chimica. Ah, quello che vi possiamo offrire noi è aiuto in caso di bisogno e ovviamente richiediamo i vostri servizi. E un'altra cosa che vi possiamo offrire è, diciamo, un futuro migliore, o meglio, noi andiamo a una società in cui Heroes e umani possono vivere in pace. Questo ammazzando i poliziotti. Vista la situazione, direi che qualunque futuro è migliore di questo. Sì, ma non ho capito, quindi la sua proposta sarebbe di farci tornare alla nostra vita normale e di svolgere i compiti che voi ci dà. Migliore rispetto alla schiavitù, ma mica esattamente. Basta razzismo. Ovviamente questo deve rimanersi lì. Vabbè, se la mette così, adesso magari possiamo fare un periodo di prova. Non ho capito cosa! Da quando sei il capo dell'organizzazione? Sto parlando con voi, non con lei. Vabbè, ognuno di sua coscienza deciderà cosa fare. Non credo che possiamo decidere ognuno per i cazzi suoi. O possiamo decidere ognuno per i cazzi suoi. Con tutto il rispetto. Certamente. Quindi se uno decide di non partecipare, non credo che torni a casa. Minchia, ha stracciato Arci così, io ci sono. ma secondo me... Non ha detto niente di tutto questo. Quindi siamo obbligati per forza. Beh... Se tu vuoi andare in no, non siete obbligati, e... potete tornare nel vostro furgoncino e tornare verso la vostra bella prigione. Io, se non fate nulla di male ai miei amici, ci sono. Nessuno ha parlato di far dei male ai tuoi amici. Ma lo sto dicendo io. Ok, mentre discutete con lei... sentite che la porta si apre. Entra il tizio di prima, l'autista. Fa: capo, la polizia è qua fuori. E come ci dobbiamo comportare? E sentite uno sparo. E direi che posso chiudere qua. Sì, ma io dico, state tranquilli che se non sono nemmeno in 15.000 ve la proprio bella giocata. Chiudiamo qua? Beh, se Arci deve andare. Come volete, io ancora una mezz'ora posso continuare, però. No, sinceramente preferisco interromperlo, perché sennò poi magari fra un po' ci dilunghiamo, deve andare via l'altro no. Ah sì, la cosa è quella, che se magari poi adesso prende piede una discussione nella quale... Ci ma penso che adesso lo combattiamo. Tipo, in realtà io volevo farvi sparare, ma se avete messo un botto arrivare fin qua, quindi... Se vuoi non rompe interrompere... Cioè, se vuoi, vai, questo... Ma non si fa assolutamente nulla. Cioè, alla fine, quando combatterci ci metteremo una mezz'ora. No, allora... poi anche il fangar abbastanza scenografico. Va bene. No, però anche per dire, giovedì prossimo che è festa? No, vabbè, per lui. Vabbè, possiamo fare il film che vuole Sal. Vabbè, ma se lui lavora. In che senso? Cioè, se vogliamo fare fino a luna... No, anche qui, dillo bene. Vabbè, aspetta, vi do il punto di esperienza, chiudiamo e poi ci siamo. Vai. Allora, io oggi avete fatto pochino perché vi siete un po' arenati nelle discussioni tra di voi. Ci sta, in realtà abbiamo scoperto di più. Sì. Sì, io quando ci hai detto che siamo complici... Beh, non era con lui, non eravamo con lui. No, infatti io dico, io me l'ho scoperto nella realtà. Adesso ci sto attento. Anche visto dalle carezze di recare. Scemo infame. Vai, dici tutto, dimmi un complice. Darei 5 di exp a tutti. Vai. Non ti ho visto di recare il mio gioco da di carezze. Non volevo uccidere. Complice in senso la situazione, eravamo tutti lì ed è successo. Vabbè, ma complice a livello legale. Io in verità non ero lì tecnicamente. Io ero nella stanza. Il colpo che ho tirato io, il colpo finale, l'ho detto. Ah, Giulio, una cosa. Mentre succede tutto questo, noti che sul tavolo davanti a Claudia c'è il tuo telefono. So che è il mio. Bello. Sai che è il tuo, sì. Faccio finta di niente. Lo brucio. Va bene. È così, per una volta cominciamo la sessione con un combattimento, roba rarissima. Allora, avete visto. La sessione tipo è: io arrivo, un'ora di parlare, io vado via al combattimento. Quindi... Tanto fai il droide protocollare, quindi il combattimento è l'utilità. No, questo è anche il quanta sessione? Sessione di Unstructured Heroes. Saluto Salla che vado in bagno. Avete visto Ash che andava in bagno? Ci vediamo giovedì. Vabbè, porta il tavolo. Sì, potrebbe essere l'ultima sessione qui, ma non lo sappiamo. Avete visto gli scatoloni? Avete visto che la trasmissione si è interrotta più volte? E... Ah sì? Sì. Non vedete la mia faccia perché non sono dentro. Ora no, forse sì. No, assolutamente no. Ora forse sì. No. Sei indietro, come fai a saperlo? Aspetta. Adesso sì. Sei sotto la scritta in diretta. Però. Vabbè, ma chi se ne frega? Tanto siamo in diretta. E, il bello della diretta. Dovremo vederci la prossima settimana, sempre giovedì. Vedo facce che dicono cosa sta succedendo, quindi ci saremo. Sì, no, giovedì. No. Probabilmente saremo qui, o forse no, dipende se ci staccano internet. Guarda, andate sul blog, che si sta riempendo di cose in cui noi c'entriamo il giusto, ma è comunque interessante. Ragazzi, dobbiamo produrre materiale anche noi. Andate sulla pagina Facebook e mi raccomando, al referendum, votate.